Radio 24 Reportage. Economia della montagna un anno dopo Vaia, di Anna Marino. Benvenuti. A quasi un anno di distanza dal ciclone Vaia, che lo scorso anno a fine ottobre ha colpito il nord-est, torniamo sull'economia della montagna, perché è proprio da qui, dalla montagna, il 35% del territorio italiano, che può partire la vera rivoluzione economica e climatica sostenibile e circolare. Ed è proprio pensando al futuro che quest'anno la Giornata Internazionale della Montagna, l'11 dicembre scorso, è stata dedicata ai giovani, perché loro guideranno il cambiamento, chiedendo che la montagna diventi centrale nelle agende di sviluppo nazionali e internazionali. Basta poco, come ci spiega chi conosce come questi territori possono diventare strategici per tutti, facendo rete. Così spiega Anna Giorgi, docente dell'Università della Montagna di Edolo nel Bresciano e direttore del Centro Interdipartimentale Jesse D. Mont dell'Università degli Studi di Milano, che da anni tiene corsi per spiegarne la sostenibilità sociale, ma anche quali sono gli incentivi e le opportunità imprenditoriali nel settore. Io mi occupo di questo tema e lo faccio, come dire, da tanti anni e da un avamposto unico a livello nazionale, che è appunto l'Unimont, che sta in montagna davvero e che porta qui 300 giovani che vogliono poi lavorare e vivere in montagna e provengono da tutta Italia. E ricordo che Unimont sta in un piccolo comune, sta a Edolo, nel centro delle Alpi italiane, a 700 metri di quota, ed è un comune di meno di 5.000 residenti. Non esiste un'altra realtà del genere in tutta Europa, perché la dimostrazione tangibile che è possibile fare eccellenza stando in un piccolo comune, quei comuni che vengono definiti vuoto a perdere, destinati, come dire, allo spopolamento. Non è vero, se si innova nel metodo, si utilizzano le tecnologie, è possibile invertire questa tendenza. C'è stata la giornata mondiale della montagna e avete presentato anche un progetto. La nostra missione come Università della Montagna è occuparci solo ed esclusivamente di territorio montano e di sviluppo appunto del territorio montano, e per questa ragione abbiamo celebrato la Giornata Internazionale della Montagna in montagna, e trattando un tema molto importante per l'economia della montagna, che è il turismo invernale, in particolare lo sci e la gestione delle stazioni sciistiche, che indubbiamente presenta luci e ombre, collegate naturalmente anche ai fatti connessi al cambiamento climatico e alla necessità di ridurre l'impatto sull'ambiente di attività come questa, riducendo contemporaneamente i costi, e anche questo è un aspetto rilevante per il successo e la prosecuzione di queste attività. Questo incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di 6 stati alpini che costituiscono il partenariato del progetto Smart Altitude, che è un progetto spazio alpino finanziato appunto da questo programma che promuove iniziative di cooperazione tra gli stati che, come dire, gravitano, che possiedono l'area alpina, intesa come area estesa, non solo le montagne, ma anche le città, la pianura, perché il cambio di passo vero si otterrà davvero quando ci sarà la presa di coscienza da parte della comunità, della società, che la montagna è un bene comune, che l'interesse comune è che la montagna sia un contesto non da sostenere, non da mantenere, ma da valorizzare per le risorse specifiche che ha, a vantaggio della competitività dell'intero paese. Dalla montagna infatti può ripartire anche l'economia, può ripartire anche un'idea di economia diversa, circolare, di un efficientamento energetico, di un'attenzione all'ambiente maggiore, soprattutto perché lì si sono visti l'anno scorso gli impatti che ci sono stati per appunto eventi climatici sì eccezionali, ma che stanno diventando sempre più una nuova normalità. Che cosa manca alla montagna per essere l'esempio, però anche in concreto? Se ne parla, ma bisogna agire. È indispensabile fare i giusti investimenti, che significa sicuramente investire del capitale, ma su quelli che sono gli asset strategici veri. E guardate, dalla nostra esperienza concreta, i due ingredienti per fare la differenza in montagna sono i giovani e l'innovazione. Ma c'è già chi lavora, adesso, tra tecnologie e foreste per far diventare la montagna risorsa e barriera climatica. Uno spin-off dell'Università di Padova, ET4, che si occupa della valorizzazione del patrimonio forestale in Italia, pulire i boschi dalle piante cadute, dare vita a nuove aree forestali. Alla sua guida c'è Lucio Brotto, che ha creato anche la nuova figura del business developer del settore forestale, figura che si occupa di investimenti sostenibili, cambiamenti climatici, servizi ecosistemici. Insieme ai suoi soci ha dato vita, tra le altre iniziative, con questo obiettivo al progetto Wow Nature. Tutti, aziende o cittadini, possono adottare in crowdfunding un albero in una zona problematica dell'Italia, colpita dal maltempo o altre calamità, come nel nord-est, la Val di Fiemme, e seguirne attraverso il GPS tutta la fase, dalla piantumazione alla crescita. E anche Radio 24 avrà il suo albero di Natale in Val di Fiemme. Così ci spiega come nasce tutto Lucio Brotto. Già nella vostra mail avete un attestato, un larice nella Val di Fiemme, è una delle valli storiche dove di fatto la tempesta Vaia ha distrutto la gran parte dei boschi l'anno scorso. E che cosa si può fare per far piantare un albero? L'azione è molto semplice per le persone, nel senso che possono andare online, scegliere l'albero che preferiscono su Wow Nature e piantarlo nella zona che preferiscono. Addirittura molto spesso organizziamo le giornate di impianto, perché l'esperienza non sia solo digitale ma sia anche fisica, per riscoprire questi posti e il contatto con la natura. Per le aziende suggeriamo sempre invece un approccio un po' più organizzato, un po' più serio, visto che hanno anche degli impatti a volte significativi. È un approccio molto semplice, si chiama come una persona, MARC, prima misuri i tuoi impatti, poi la A dall'inglese avoid, cerchi di evitarli, capisci quelli che sono i rischi del cambiamento climatico che distrugge sempre di più le nostre economie, e solo infine comunichi prendendoti cura di aree naturali. Dopo il ciclone Vaia, com'è quella zona? Com'è da tutelare? Che cosa si deve fare? La tempesta Vaia è qualcosa che non abbiamo mai vissuto nell'esperienza, diciamo, storica italiana, quindi molte soluzioni le stiamo imparando passo a passo. Di sicuro, per riportare alla vita questi boschi bisogna capire come si evolveranno. In alcune situazioni basta rimuovere il materiale a terra per scongiurare il diffondersi degli insetti che distruggeranno altrettanto bosco, e molto spesso i semi degli alberi circostanti faranno ripartire le foreste. Chiaro che però molti proprietari non riescono a rimuovere questo materiale perché magari è su zone molto scoscese, in pendia, ed ecco che gli aiutiamo a ricostruire il bosco semplicemente pulendolo e sistemandolo. Dall'altra parte, dove invece la scienza ci dice se pianti guadagni tempo, ecco che oltre alla pulizia andiamo anche a ripiantare gli alberi. Ogni ettaro si impiantano tra i 1500 e i 2000 alberi. Attenzione, bisogna anche però ripartire con un modello nuovo, dove la foresta, che molto spesso è stata abbandonata per gli interessi della città, per il fatto che i cittadini cercano le comodità, deve essere ripensato con un modo nuovo. Ecco che allora ogni area nella quale operiamo andiamo a realizzare la certificazione FSC, che ci garantisce un impegno di lungo termine nella buona gestione, ma anche l'introduzione di concetti innovativi come i bagni di foresta, i percorsi terapeutici, l'educazione ambientale in bosco, diciamo innovazioni che attirano sempre di più i cittadini verso le foreste. E proprio come simbolo dell'economia circolare, che sposta l'attenzione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare, riciclare i materiali e i prodotti esistenti, grazie alla collaborazione tra persone e territori, il bosco che suona e il legno della foresta dei violini della Val di Fiemme, abbattuto dal ciclone Vaia, fanno rinascere il teatro dell'arte della Triennale, utilizzato nei rivestimenti che richiedevano una particolare capacità di risonanza. Stefano Cattoi, dirigente settore foreste magnifica Comunità di Fiemme. Ci siamo svegliati la mattina della fine di ottobre senza corrente elettrica, senza comunicazioni, senza niente, sembrava di essere su un altro pianeta. Anch'io con i miei collaboratori non eravamo in contatto, nessuno sapeva quello che poteva essere successo da una parte e dall'altra, ma tutti subito ci siamo molto molto preoccupati, perché avendo andato ciascuno di noi abita in una parte diversa della valle, però bastava alzare gli occhi e dire: oddio mio, cosa è successo stanotte, perché si vedevano già da subito delle grandi macchie di legname terra, e quindi stiamo ancora raccogliendolo e ne avremo sicuramente per tutto l'anno prossimo e forse anche per un po' del 2021. Nei calcoli che in una notte, in quella notte lì è caduto quello che di solito noi tagliavamo normalmente secondo i piani di gestione approvati e portati avanti da decenni, quello che avremmo dovuto tagliare in 10 anni, che corrisponde a quello che cresce in 6-7 anni nei boschi. Il legno della triennale deriva da questi schianti che abbiamo cominciato ai primi di novembre, noi eravamo già operativi con le nostre squadre, abbiamo sospeso tutti i tagli che erano già in corso in piedi, di legname in piedi, abbiamo dirottato le squadre ad allestire il legname a terra. Questo in particolare proviene dalla zona di Predazzo, che è particolarmente vocata per fare il legname di risonanza. Dicono che Stradivari, Paganini e altri grandi autori, costruttori di strumenti musicali venissero insieme. È così, la vita della montagna può insegnare generazione dopo generazione la sostenibilità a tutti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.